Questa è Spazio Radio. La verità è che non gli piace abbastanza. Era il titolo di un libro. La verità è che sto cercando delle scuse per non cominciare questa trasmissione. È una cosa che una manfrina che va avanti qui in studio, negli studi di Spazio Radio, da qualche minuto. Sono tanti anni che non conduco una trasmissione completa, intera, e torno a farlo in un'occasione in effetti triste, in un giorno di pioggia, cercando di trasformare una perdita in ambito musicale in un arricchimento, in qualche cosa che ci possa in qualche modo rendere più pieni di qualche cosa. E di che cosa potremmo riempirci? E soprattutto che cosa o chi abbiamo perso? Non dovrei dire le date di questa trasmissione, visto che in quanto uno speciale interamente dedicato a, non vi dico ancora chi, potrebbe essere replicato nel tempo, ma noi lo registriamo proprio nel momento in cui abbiamo appreso da pochissimo della morte di Moya Brennan, la voce dei Clan Nad, una voce sulla quale si possono dire tantissime banalità, più di quante se ne possano immaginare, anche perché le banalità tendono a riciclarsi su se stesse, ma si possono anche provare a fare delle osservazioni un po' più pregne, un po' più interessanti. Oggi proveremo insieme a fare tutte e due le cose, ma soprattutto faremo compiremo un percorso attraverso la musica dei Clan Nad, e quindi attraverso la voce di Moya Brennan, chissà se si pronuncia veramente così. Non sarà sicuramente lei a dircelo più, questo è un peccato. I Clan Nad, sui Clan Nad pure avremo tante cose da dire. Da dove cominciamo? Cominciamo dal significato. Clan Nad vuol dire famiglia, ma più specificatamente qualcosa in più. La famiglia di un luogo specifico, un luogo che, nonostante il successo mondiale, la ribalta, la sovraesposizione, Moya non ha mai abbandonato, così come non ha mai abbandonato il piacere di fare musica insieme ai suoi cari, persino con i suoi figli, due, frutto di due matrimoni. Questa introduzione che abbiamo scelto al posto della sigla non è il brano con cui avrei voluto cominciare. Avrei voluto cominciare, e lo farò, con la cosa più banale e più popolare che si possa ascoltare quando si parla di Clan Nad, anche perché, come dicevo prima, e questo spiega la mia ritrosia ad aprire il microfono e premere per la prima volta in questa giornata il tasto play, dicevo, ma voglio veramente dirlo. Sì, voglio cominciare, pensavo di volere ricominciare a fare radio dopo tanto tempo con un pezzo che sia bellissimo. Ora però non so se vale il pezzo che sto per mettere oppure quello su cui abbiamo parlato fino a questo momento. Beh, intanto vi dico che questa era Atlantic Realm, la cosa più simile a un pezzo strumentale, quasi ambient, che i Clan Nad ci hanno dato. E poi serve anche a celebrare Moya in absentia, no? Sentite che differenza quando la voce di Moya non c'è e quando invece c'è, e qui c'è. Beh, in verità non è da sola e non è neanche male accompagnata. Lo sapete tutti, no? Chi canta con Moya in a Lifetime. Succedeva nel 1985, ma poi andremo indietro agli inizi della vita dei Clan Nad. Oh. Ah, non so se ve l'avevo detto, ma io tendo a commuovermi. E questo poi è proprio un brano sul ciclo della vita, parla di questo, e noi lo stiamo ascoltando per celebrare Moya Brennan nel momento in cui lei non c'è più. Prendiamo qualche parola, se vogliamo. Hard to tell or recognize a sign to see me through a warning sign. Difficile capire e riconoscere un segno che mi guidi attraverso un segnale di allarme. Prima la marea irrompe, pianta un seme dove soffia il vento e quel seme mette radici nella tempesta. In una vita, in una sola vita, nell'arco di una vita. Ve l'avevo detto che mi commuovevo. E questa è la vita di Moya Brennan. Ancora in absenza, pensiamo alla voce di Moya Brennan dove non c'è. Questa era Eleanor Plunkett, e ancora Eleanor Plunkett, abbiamo ascoltato dal vivo, una melodia antica composta da Tarloth O'Carolan, uno degli ultimi grandi artisti itineranti di Irlanda. I Clannad la riprendono e la fanno loro senza modernizzarla davvero, e cioè la lasciano respirare. E noi entriamo nel mondo Clannad parlando della casa. La casa dove Moya cresce, una casa dove per parlare, per comunicare, si usa la musica. Il padre suona, il padre gestisce un pub, la mamma insegna musica e i fratelli condividono tutti questo linguaggio naturale. Quindi quando nascono i Clannad non nasce un gruppo, nasce un'estensione della famiglia. Le armonie vocali non sono costruite a tavolino, ma sono un vero equilibrio. In questo equilibrio mi immagino anche le scene, quelle qualunque, no? Tipo a pranzo, mi passi il sale per favore, e quello gli risponde con una schitarrata o con un giro di arpa, e lei se lo guarda e dice boh, che avrà voluto dire. Ma queste sono fantasie mie. Quello che è importante è che in tutto questo ensemble Moya, la maggiore dei figli, non domina ma tiene insieme tutto, un po' come un centro invisibile. Ma non si fa sempre solo musica. Insomma, tra un passami l'olio cantato e un non giocare con il cibo suonato con la mandola, i Clannad in famiglia presumibilmente parlano. E in che lingua parlano? Parlano in gaelico. Perciò che cosa succede? Che poi quando cantano in gaelico non lo fanno per esotismo, ma perché è la loro lingua, perché ascolta da fuori, questa lingua diventa uno strumento musicale. Non si comprende tutto, ma in qualche modo si percepisce, quindi la voce diventa suono puro, vibrazione, respiro e crea un linguaggio musicale capace di parlare al mondo senza semplicemente tradurre se stesso. Comunque il pezzo che abbiamo ascoltato e che stiamo ancora ascoltando in sottofondo si intitola Anfaerk, ossia il campo, il prato, ma non stiamo parlando di un campo agricolo, di un campo reale, ma di un luogo simbolico. Quindi quello di cui parla davvero la canzone è la memoria, l'incontro, il luogo dell'anima, il passaggio del tempo, un posto dove si torna, dove si aspetta e dove qualcosa è successo. Ma non è che proprio sia spiegata questa cosa, è un po' più evocata. Poi se ci volete leggere un altro significato, fate pure se volete. E per quanto riguarda invece noi, possiamo dire che ci risentiamo dall'altro lato di Dulaman. Dulaman, Shkella e kiko kjalla an kirdi Shin shkella hërshi agon gëroa ken kire Dullu mande të njëti, dullu mande la Dullu mande të njëti, dullu mande la Pe qenë të në qire, sëm dullu mande la Iksëri dhe një indër, sëm dullu mande la Dullu mande të njëti, dullu mande la Dullu mande të njëti, dullu mande la Dullaman, che vuol dire alga marina, ma non è una canzone sulle alghe in senso botanico, è un canto tradizionale irlandese, giocoso, quasi un nonsense costruito come dialogo, come corteggiamento simbolico. È la musica che nasce da una comunità, ma guarda avanti, non è chiusa nel passato, ha già un movimento verso qualcosa di più ampio e siamo ancora soltanto al 1976, quindi è proprio il secondo album dei Clannad, in piena fase folk gaelica pura, ancora niente, nessuna traccia del suono etereo anni 80 che tutto sommato è quello in cui presumibilmente li abbiamo incontrati noi, anche grazie a una curiosa un curioso episodio che ha fatto sì che andasse in onda per radio una loro canzone. Per la cronaca invece dei brani precedenti, An Fyrk era del 75, tratto da Clannad 2, e Eleanor Plunkett risaliva addirittura al 1973, anche se, come abbiamo spiegato e visto insieme, le radici sono decisamente molto ma molto più antiche. E adesso che cosa facciamo? Adesso facciamo qualcosa di molto importante. Andiamo al momento topico, il momento in cui il mondo scopre la canzone in gaelico, perché Theme from Harry's Game passa per radio. Fall the door, fall the door, fall the door. Beh, in realtà ho detto un'inesattezza, perché sì, è vero, passa per radio la bellissima theme from Harry's Game, ma non nasce per la radio. È una canzone che nasce per una serie televisiva, Harry's Game, appunto, del 1982, una produzione britannica ambientata in Irlanda del Nord, dal clima teso, politico e drammatico. Quindi vengono chiamati i Clannad per la colonna sonora, e loro fanno una cosa rischiosissima, perché cantano in gaelico senza nessuna struttura pop e senza nessun ritornello di tipo radiofonico. L'atmosfera, avete sentito, è sospesa, quasi immobile, quanto di forse meno radiofonico si possa immaginare. E invece succede il contrario, perché il pezzo spacca, come diremmo noi, colpisce immediatamente per il suo suono unico, viene notato fuori dalla serie, viene pubblicato come singolo e arriva nella top 5 del Regno Unito e nella rotazione delle radio. In radio funziona perché non è radiofonico, perché è diverso da tutto il resto. Siamo nel 1982, quindi imperano il synth pop, la new wave, i ritmi veloci, e poi di botto arriva così, una voce in gaelico sospesa nel vuoto. Immaginatevi, voi che ne so, state ascoltando i Cure, i Soft Cell, con questi DJ britannici sparati con i capelli dritti, e poi improvvisamente boom, ta, boom, boom, boom. È follia, no? Anche se poi in realtà c'è da dire una cosa, che prima di avere questo incredibile successo insperato con Theme from Harry's Game, addirittura i Clannad avevano provato a cantare in inglese. E a questo proposito andiamo ad ascoltare una canzone che ci parla di non ridete, per favore non ridete, andiamo a fare funghetti. Sì, andiamo proprio a fare i funghetti. Beh, campagna irlandese, inglese, ci stanno i funghetti, no? Il problema è che certe volte tu prendi un funghetto e invece vedi un elefante rosa che vola. Rising early out of bed, across the fields I steer it all. When oh, and I, a woman I spied, a pretty fair maid appeared tall. Her head was fair, I do declare, she had neither hat nor feather on. And she stooped so low, you need to know, it was mushroom she was gathering, no, oh, gathering, no. And she stooped so low, give me to know, it was mushroom she was gathering, no. She said, I am gathering mushrooms to make my mommy pitch a ball, oh, pitch a ball. And she said, I am gathering mushrooms to make my mommy pitch a Gathering Mushrooms, un passaggio quindi, i Clannad che escono dal puro tradizionale e iniziano a fare cosa? A giocare con immagini più libere, quasi visionarie. Non è tanto una storia quanto un viaggio, e grazie al piffero, se parliamo di funghetti, il viaggio ci sta tutto. Mi perdonerete se me la rido, però insomma... un po' di allegria ci sta. E poi questo è un pezzo ponte fra folk e modernità, anticipa quello che poi sarà il suono anni 80 nei Clannad, ed è un'ottima preparazione a Harry's Game, ed è per questo che avremmo dovuto ascoltarla prima e invece l'abbiamo ascoltata dopo. Perché? Perché ho premuto il tasto sbagliato. E allora torniamo a quello che la nostra scaletta originale ci suggeriva, nel mentre che io rovino la canzone dei funghetti parlandoci sopra, e ce ne andiamo a New Grunge, non grunge scritto come grunge, come le robe lì dei Nirvana e dei gruppi di Seattle. Questo è scritto grunge, anche tutto attaccato a dire la verità. New Grunge, di che cosa parlerà? Come ci parlerà? In che lingua ci parlerà? Ci parlerà? Ci suonerà? Ci racconterà un'altra storia? Siete all'ascolto di Spazio Radio e chi vi parla è Amaterasu. Oggi numero zero di una nuova trasmissione che non si sa quando andrà in onda, quando avrò voglia di parlarvi di qualcosa di particolare. Abbiamo anche un titolo e abbiamo deciso di intitolarla Final Frontier. O più, no, stranamente, Ultima Frontiera. Scegliete voi se volete l'anglismo o no. New Grunge, quindi, che cosa sarà mai? È una persona, un fatto, un posto, un ballo irlandese, una danza di corteggiamento? Beh, New Grunge è un posto. New Grunge è un posto che è molto più di una tomba, un posto che potremmo dire batte Stonehenge 3-0. È un monumento neolitico che sta in Irlanda e fa parte del complesso di Brú na Boinn. Spero che la pronuncia sia sufficientemente sbagliata da essere fedele al nostro modo di fare le cose, e cioè male. È stato costruito intorno al 3200 avanti Cristo, il che lo rende più antico delle piramidi di Giza e appunto della stessa Stonehenge. E formalmente è una tomba a corridoio, cioè una passage tomb, ma è piuttosto limitante ridurlo a tomba, dicevamo, perché ogni anno all'alba del solstizio d'inverno, circa 21 dicembre, un raggio di sole entra perfettamente nel corridoio e illumina la camera interna per circa 17 minuti. Cosa significa questo? Significa conoscenze astronomiche avanzatissime, progettazione millimetrica, è un simbolismo fortissimo, la luce che entra nel buio e quindi rinascita. Io ve lo ridico un'altra volta, casomai vi fosse sfuggito, stiamo parlando del 3200 avanti Cristo. Quindi che cosa ci dice davvero Newgrange? Non è solo un sepolcro, è un luogo rituale, un calendario astronomico, un simbolo di potere e di conoscenza. Un punto di contatto tra vita, morte e rinascita. Non vedo un posto migliore dove andare a cercare l'anima di Moya Brennan, che è stata la voce dei Clannad per praticamente una vita e che adesso non è più nel mondo di noi che ancora camminiamo sulla terra senza essere zombie. Quindi pensate un attimo a questo: quando a Roma non c'era niente, quando le piramidi erano ancora fantascienza, in Irlanda qualcuno costruiva una macchina di luce e ogni inverno, nel giorno più buio, il sole entrava lì dentro a dirvi: tranquilli, ricominciamo. E ci ricaschiamo nelle colonne sonore. Un'altra colonna sonora per i Clannad, in questo caso è una serie sempre per la TV degli anni 80 intitolata Robin of Sherwood. Insomma, Robin Hood più o meno lo conosciamo tutti, un uomo che viveva nella foresta, un uomo in calzamaglia, secondo la versione più satirica che ne è stata fatta al cinema. Io direi soprattutto un uomo che nel suo vivere nella foresta non portava con sé i bambini, costringendosi a lavarsi con l'acqua fredda e a non avere dei compagni di... Scusatemi, questa mi è scappata proprio. Vabbè. Insomma, non è la solita musica epica medievale, dai, è più mistica, più sciamanica, quasi pagana. C'è questa voce, ovviamente, quella di Moya Brennan, ci sono questi cori che sembrano rituali, c'è questo ritmo lento che sembra più un'invocazione che un'azione, e poi un'atmosfera da foresta che è viva, non è battagliera, non è bellicosa. Non ti racconta un Robin Hood eroe, te lo racconta come una figura un po' mitologica, come uno spirito del bosco. E siccome prima abbiamo ascoltato New Grange, che era un luogo sacro, ciclico, legato alla luce e ai rituali, e poi una volta che abbiamo un luogo dobbiamo metterci delle persone, e ci mettiamo Robin, l'uomo che vive nel bosco ma con rispetto, con un'aura quasi sacra. Stessa radice culturale, mondo celtico, natura viva, spiritualità diffusa, senza separazione tra umano, natura e sacro. Quindi se New Grange è il tempio della luce, Sherwood è il tempio della terra. E in mezzo non c'è religione, c'è qualcosa di più antico, perché i Clannad non stanno facendo musica medievale, stanno evocando un mondo in cui gli alberi ascoltano. a un certo punto arriva anche una maggiore accessibilità, una forma un po' più diretta, però senza perdere profondità, un equilibrio raro tra immediatezza e complessità in questa Closer to Your Heart. Ma a un certo punto di questa storia arriva anche la sorella piccola e famosa, se vogliamo, no? Quella che adesso vi faccio soltanto intuire, avete capito di chi stiamo parlando, ma prima di ascoltare una sua canzone, vediamo in che modo Enya entra nella storia dei Clannad, perché in Almost Seems Too Late to Run, troppo tardi per fuggire, appare anche Enya, che per un breve periodo ha fatto parte dei Clannad e ha fatto più bene essere della famiglia dei Clannad a Enya per essere prodotta e diventare famosa, o ha fatto più bene ai Clannad il grande successo commerciale di Enya? Questo è difficile dirlo in realtà. Probabilmente quando si tratta di partire da zero, avere un sentiero da seguire o qualcuno in famiglia che ha delle conoscenze, sicuramente fa più comodo. Solo forse i più maniaci, i più appassionati sono andati a fondo a scoprire poi che Enya veniva da una storia musicale e familiare come quella dei Clannad, e quindi sono andati a cercare i loro dischi. Tra questi pazzi, tra questi sciocchi, tra questi stolti, sicuramente io che andai a scoprire i Clannad proprio grazie a Enya. Ma ascoltiamo prima questa Almost Seems e vediamo perché l'abbiamo inserita proprio in questo punto della scaletta. È una canzone del 1985. So they are me dispiace molto quando qualcuno che ha già delle doti di suo viene poi ricordato come la moglie di, la sorella di, il marito di. In questo caso sì, sono indubbiamente sono sorelle, Moya e Enya, che amo sempre pronunciare col suo nome completo, cioè Eithn Ni Braoniain. Pronunciare, volevo dire che amo pronunciare con il suo nome completo male, ovviamente, perché non lo so fare bene, altrimenti lo farei bene. Moya è nata il 4 agosto del 1952, per cui ci ha lasciato all'età di 73 anni, 74esimo non è arrivata a compierlo, mentre Enya, o Eithn se volete, la piccolina, è nata il 17 maggio del 1961, insomma in età da pensione anche lei, ma comunque. Beh, due caratteri molto diversi e soprattutto due strade musicali che si sono incrociate per un breve periodo, ma poi si sono separate nuovamente. La famiglia dei Clannad non aveva bisogno dell'exploit di Enya per diventare importante, ma sicuramente quando Enya viene presa in considerazione non parte da zero. Aveva dietro le spalle il fratello Charan Brennan, produttore e compositore, e un produttore importante, Nicky Ryan, che aveva collaborato già prima con i Clannad. Quindi il passaggio è questo: Ryan lascia i Clannad e prende Enya. E cosa succede a questo punto? Che costruisce con lei un suono completamente nuovo. Qui siamo in una parentesi, naturalmente. Oggi parliamo dei Clannad e ricordiamo Moya Brennan, ma è giusto anche creare un po' di contesto. E siccome abbiamo parlato di foresta e di alberi, andiamo ad ascoltare due brani di Enya e per primo ho scelto The Memory of Trees, la memoria degli alberi. E a me piace sempre pensare che fra i cerchi degli alberi, con queste radici che vanno nella profondità della terra, ci sia un po' di tutti noi, di quelli che sono stati, di quelli che siamo noi, che rinnoviamo in continuazione le nostre cellule e le restituiamo alla terra. Che gli alberi siano un po' un ponte di congiunzione tra chi calca la terra oggi e chi l'ha calcata in passato. Perciò mi piace che ci sia questa memoria degli alberi, questa Memory of Trees di Enya in questa speciale trasmissione che ricorda la sorella Moya, scomparsa da poco. Thank you.

Ragazzi, a un certo punto non ne potevo più di sentirla, mi usciva da tutti quanti i buchi, mi aveva usurato. A volte si dice che un brano di grande successo rovini un album perché rimane impresso solo quello, poi arriva al disgusto ed eclissa il resto del lavoro che lo contiene. E invece Watermark era un disco bellissimo che mi ha fatto emozionare e sognare tantissimo. Comunque Moya ed Enya rappresentano due modi diversi di usare la voce, uno condiviso, quello di Moya, e l'altro solitario e stratificato, ma con sensibilità di partenza molto simile in realtà. Io forse è anche giusto che abbia iniziato il mio percorso verso questo genere di musica con Enya, perché nonostante gradisca la compagnia e mi piaccia creare connessioni, in fondo mantengo sempre un fondo oscuro di anima solitaria, ma non siamo qui per parlare di me. Questa è Spazio Radio. Allora, visto che abbiamo inserito la parentesi dedicata a Enya, forse è il caso di rimettere un po' ordine in questo ultimo trittico di brani. E nel percorso che in qualche modo li unisce e li porta a comporre per noi una figura unica. Infatti abbiamo ascoltato prima un brano tratto da Makalla, che era Closer to Your Heart, che è il momento in cui il suono dei Clannad si apre davvero al mondo. Entrano le strutture pop, la collaborazione con Bono che li consacra al successo internazionale, però mantenendo fortissima l'identità del gruppo. Ovviamente in A Lifetime l'abbiamo ascoltata all'inizio, e ci chiuderemo anche nuovamente la trasmissione fra una circa quarantina di minuti. Saremo insieme, in un paio d'ore, siamo già insieme da un'oretta. E anche quindi Closer to Your Heart è una esempio di questa apertura, un brano diretto, accessibile, però ancora sospeso tra tradizione e modernità. Mentre Something to Believe In, che abbiamo ascoltato prima dello stacchetto di Spazio Radio, è un pezzo tratto da Sirius, album del 1987, in cui diciamo che la transizione si completa, il suono dei Clannad diventa più levigato, più internazionale, più radiofonico, e Something to Believe In è esattamente questo momento, a dire la verità, quando la sento all'inizio credo di stare sentendo i Fleetwood Mac, ma questa è una mia considerazione personale. Quindi i Clannad entrano con tutte le zampe nel linguaggio pop, senza perdere la loro atmosfera, ma in qualche modo concedendo qualcosa e semplificando il messaggio. Ma poi arriva Anam del 1990, da cui abbiamo ascoltato proprio e stiamo ascoltando sotto questa Rina Cruin, e succede qualcosa di diverso, perché i Clannad trovano un loro equilibrio tra un suono più essenziale, più vicino alle radici, ma portando con sé tutta l'esperienza accumulata. E andiamo avanti. Sentite gli scrocchi e il fruscio del vinile? Non ho dovuto faticare molto per preparare questo speciale sui Clannad. Ce li ho tutti. Vabbè, qualcuno è un CD. If it takes a long I Will Find You, che abbiamo ascoltato nella versione destinata alla pubblicazione ampia, ma voglio rubare la vostra attenzione per un altro minuto e 48 secondi per ascoltare la versione originale, quindi un arrangiamento più semplice, diverso, per la stessa I Will Find You. E questa era la versione originale di I Will Find You. State ascoltando Spazio Radio e la voce che vi tiene forse compagnia è quella di Amaterasu. L'occasione per un viaggio nella musica dei Clan Nad è la trasformazione da corpo umano a pura energia di Moya Brennan. Detto in parole povere, è morta. Strength is to share where we're Beh, quando parliamo della cantante di un gruppo e poi di un gruppo la cui identità di gruppo è così forte, è anche difficile farsi un'idea della persona di cui stiamo parlando. A me piacerebbe invece cercare di fare un piccolo, mettere insieme qualche piccolo frammento di ritratto di Moya Brennan, magari in base alle interviste che ci ha lasciato. E devo dire che non era una, estremamente pimpante e scoppiettante nel senso in cui che siamo abituati ad attribuire alle stars. Sarebbe inventare un personaggio solo perché ci farebbe comodo in radio. Non era neanche una donna cupa o rigida, diciamo una cifra di calore sobrio, una dolcezza non zuccherosa, probabilmente una presenza serena in molte situazioni, ma senza il bisogno di imporsi come la simpatica, come magari noi cretine che ci mettiamo dietro a un microfono a parlare. Ma questo è un dettaglio interessante, il fatto che certe persone non vengono ricordate per le battute, ma lasciano un'impressione di bene, di agio, di gentilezza, di spazio abitabile. E nel suo caso l'impressione complessiva è questa: non la donna che fa casino, ma quella che rende il clima più umano. Quindi Moya Brennan, una donna radicata nella sua famiglia, anche segnata da momenti difficili, ma sempre capace di ricomporsi e restare umana, anche dentro a una voce che sembrava venire da molto lontano. E in questo caso, a differenza del suo partner in A Lifetime, Bono Vox, detto la voce aliena, un lontano non nello spazio, ma un lontano nel tempo. E a proposito di spazio, vi ricordo che siete all'ascolto di Spazio Radio, così siamo riusciti a infilarlo dentro al discorso. Il punto non è stabilire se Moya Brennan fosse simpatica o misteriosa, ma capire che impressione umana lascia dietro di sé. E sicuramente quella che affiora non è quella di una maschera, ma quella di una persona vera che non coincide con un mito, ma lo rende credibile proprio abitandolo da umana. E un'umana che ha fatto grandissima musica, che noi continuiamo ad ascoltare ancora per una mezz'oretta. Siamo quasi alla fine del nostro percorso logico, poi inseriremo un po' di brani non proprio a caso, ma diciamo così, a gusto. Just love. a parte che Croi Croga sembra letto, visto scritto, sembra genovese. Comunque è il ritorno alle radici gaeliche dei Clan Nad nel 1996 dopo la sbornia internazionale, e il titolo della canzone significa cuore coraggioso. Spazio Radio, voci e suoni in libertà. Siamo praticamente giunti al termine della parabola che ripercorreva la vita artistica dei Clannad con Moya Brennan, e adesso veleggiamo in serena libertà verso il termine delle due ore che ci sono state concesse da Spazio Radio per stare insieme, e lo facciamo con dei brani messi insieme senza un vero costrutto logico e senza un'intenzionalità, solo per il gusto ed il piacere di ascoltarli. Rimango affezionata a questa Bamba Oir che all'epoca mi fece compagnia nelle trasmissioni del mattino. Il problema è che sono passati 30 anni. Negli anni ho sentito tanti sfondoni da parte di DJs e speakers radiofonici, per esempio con Gloria, una canzone di cui esistono diverse canzoni omonime per l'appunto, ma non si tratta di cover di Gloria. E così anche il pezzo che abbiamo ascoltato prima di questo si intitolava Why Worry, che ricorda, in effetti è esattamente lo stesso titolo, una canzone dei Dire Straits contenuta nell'album Brothers in Arms. Ma casomai vi venisse in mente di dire a un amico davanti alla macchinetta del caffè che i Clannad, tra le varie cose, hanno fatto anche una cover dei Dire Straits, no, non lo hanno mai fatto. E un'altra cosa assolutamente da non dire mai sui Clannad è che Enya faceva parte dei Clannad stabilmente. Lei è passata brevemente, non è mai stata un membro storico, non è mai stata la voce dei Clannad. La voce dei Clannad era Moya Brennan. Shall the sea shot at Questa era Sean Chass, o io vi dico come è scritto, Sean Chass con l'H, vabbè, Sean Chass, come Sean Penn, Sean Chass, se no posso fare come quel mio amico che non nomino perché poi dopo tutti quanti fanno gli scongiuri, che quando è nel dubbio chiude moltissimo la pronuncia sui suoni anglofonici, dice così se qualcuno lo contesta dice no ma io l'ho detto bene, solo che non hai capito bene tu. Beh, e potrei impegnarmi anche a spiegare in gaelico la matrice vera del nome Clannad. Abbiamo detto famiglia, sì, ma non famiglia e basta. Clan con due N, As Dobhar, cioè la famiglia originaria di Dor. Una bella, un bel nome per una stirpe di musicisti che non sono soltanto la famiglia Brennan, ma anche la famiglia Duggan, tutte e due originarie del villaggio di Gwyndor, nella contea di Donegal. Va là in Irlanda, ma l'ho nominata l'Irlanda in tutte queste due ore perché tutto questo è Irlanda, ma penso di averlo fatto, anche perché altrimenti mia sorella mi dissorella. Bene, dopo questa Sean Chast tratta dall'album Lore, io direi di concedere a me stessa una parentesi. Vi ho detto che se avete ascoltato tutta la trasmissione forse ricorderete che porto con me una matrice oscura e solitaria, e ho detto questo almeno, insomma, e nel momento, in uno dei miei momenti più oscuri e più solitari, scoprii un brano che era un'altra sfida alla capacità di pronunciare cose difficili, perché si intitola Coinlach Glas an Fomhar, che sembra Klingon, se mi lasciate dire, se mi consentite, mi consenta, sembra proprio Klingon. E invece, ovviamente, come al solito, è gaelico. Just the cause. E comunque 30 anni dopo la prima volta che ho ascoltato questo pezzo, al di là delle mie difficoltà di pronuncia, finalmente grazie all'intelligenza artificiale posso tradurre il gaelico e capire di che cosa parla la canzone, o quantomeno che cosa significa il suo titolo. Koinè sono candele e Gheala vuol dire bianche, luminose, e Anfomer dell'autunno. Quindi le candele bianche dell'autunno, un'immagine molto precisa, più che un'immagine di tempo, un'immagine di atmosfera. Luci piccole in una stagione che scende, la fine di un ciclo, non l'inizio, qualcosa che resiste, mentre tutto si spegne. Quindi un giusto finale per questa trasmissione interamente dedicata a Moya Brennan e ai Clannad, con anche una piccola parentesi per la sorellina Enya, che comunque ci ha aiutati, o almeno ha sicuramente aiutato me a incontrare lungo la strada i Clannad. E per finire vorrei rivolgermi direttamente a te, Moya, come se potessi sentirmi. E chissà, forse in qualche modo puoi farlo. Io ho sempre avuto un'idea della radio un po' mistica, un po' spirituale, anche adesso che siamo sul web. Mi piace pensare che resti un ponte di contatto tra dimensioni diverse, tra voci, tra tempi. E allora mi piace immaginare che questo spazio, questo momento possa arrivare anche a te. Tu che sei passata in quella dimensione che non sappiamo descrivere, ma che continuiamo a percepire. Voglio dirti grazie, perché anche se non ci siamo mai conosciute, sicuramente tu non hai mai conosciuto me, la tua voce è stata qualcosa di bello lungo il mio cammino, nei momenti facili e in quelli più difficili. È in quel percorso fatto di alti e bassi che chiamiamo vita, sei stata presenza. E allora, chiudiamo questo circolo così, come lo abbiamo cominciato. Dopotutto sono passate quasi 2 ore dall'inizio di questa trasmissione. Amaterasu vi saluta con In a Lifetime.